Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo già lo sapete, ve l'ho detto anche la nostra sigletta è Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera Barcellonese, Contrabanda FM 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world, la web contrabanda.org, e poi potete trovare, scaricare quando ne avete voglia tutti i podcast dello Zibaldone da oltre un decennio, li trovate sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Oggi 21 aprile, puntata ricca, mi ci ficco davvero perché è una puntata speciale quella di quest'oggi, non vi dico dedicata a che cosa, lo scoprirete prestissimo, forse già ascoltando il primo brano con cui apriamo queste due ore di Zibaldone. Loro sono i Gang, Alle Barricate. Parma è un'altra storia, si sente oltre torrente, solo la storia. Si sente oltre torrente solo un grido, morte o gloria. Alle barricate, alle barricate, alle barricate, alle barricate, alle barricate. Alle barricate, loro sono i Gang, una canzone abbastanza conosciuta per quanto recente, del 2015, scritta da, cantata e soprattutto da Marino Severini, scritta insieme al fratello Sandro Banzo. Buon pomeriggio, bentornato allo Zibaldone, una puntata molto combat rock da questo inizio almeno, eh? Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Sì, l'inizio è combat rock, poi ci sarà una certa varietà di stili musicali e, come avevi giustamente annunciato, si tratta di una puntata, io preferisco dire monografica, mi piace più di speciale, speciale, come ragione, termine, perché ultimamente, anche per questioni di, diciamo, comodità produttiva, ci piace fare questi monografici che ci permettono di sviscerare dei temi, e in questo caso, insomma, quale potrebbe essere il tema? Il tema sono i fascisti, ecco. Sì, ma perché ricordiamolo, Banzo, oggi siamo al 21 aprile, tra quattro giorni è il 25 aprile, un 25 aprile molto importante, vista come tutti se vogliamo, ma vista ancora di più l'esistenza di questo governo dallo scorso mese di ottobre, quindi insomma è anche un 25 aprile particolarmente sintomatico, come forse lo è stato, Banzo, mi permetto di dire, quello del 1994, quando Berlusconi stava proprio insomma cominciando il suo primo governo dopo la vittoria delle elezioni del mese di marzo. Beh sì, probabilmente sì, anche perché da allora le cose non hanno fatto altro che peggiorare e effettivamente sì. Adesso ci troviamo con dei post-fascisti al governo, perché insomma io non li definirei fascisti, però non vuole essere quella pelosa distinzione, perché ormai il fascismo non esiste più. È gente che si trova ben comoda con quel tipo di eredità ideologica e agisce conseguentemente, anche se poi ovviamente si muovono per il momento nell'alveo delle istituzioni democratiche. Sono comunque persone che con la democrazia di per sé, dal mio punto di vista, non hanno moltissimo a che vedere, e quindi volevamo un po' ripercorrere con questa scaletta la storia del fascismo attraverso canzoni che lo criticassero o lo ridicolizzassero, perché diciamo che ovviamente al di là della critica seria, ideologica che si può fare a queste idee politiche nefaste, c'è anche un aspetto spesso ironico, comico, della cialtroneria fascista che ci ha fatto piacere sottolineare con questa selezione musicale, della quale non ho ancora detto il titolo. Diciamolo. Da chi ci siamo liberati, da chi dobbiamo liberarci, nel senso che effettivamente la liberazione è avvenuta, la Repubblica Italiana nasce dalle ceneri del fascismo con un'impostazione antifascista, però insomma abbiamo detto che i post-fascisti attualmente godono di ampio potere e di uno spazio anche retorico per colonizzare l'opinione pubblica che è veramente molto ampio, è difficile sfuggire al qualunquismo sistematico col quale vengono banalizzate ad arte le questioni e che servono alla fine a riportare in auge, a fortificare quelli che restano ideali anche di questi post-fascisti che a noi non piacciono, come la gerarchia, il nazionalismo più becero, Dio, patria e famiglia, quelle cose lì. Ecco. Sì. Abbiamo cominciato con i Gang, Alle barricate, una canzone che ricorda gli avvenimenti che si tennero a Parma all'inizio di agosto del 1922, e questo lo dico anche perché le canzoni che ascolterete insomma seguiranno uno sviluppo cronologico nei fatti che raccontano, insomma un 100 anni, un secolo di fascismo appunto nelle canzoni. E i fatti di Parma del 22 sono molto importanti, perché come canta nella canzone Severini, Parma è un'altra storia, ossia la resistenza vittoriosa della popolazione del quartiere dell'Oltretorrente, dei rioni Naviglio e Saffi, di fronte a 10.000 fascisti comandati dal RAS ferrarese Italo Balbo, che alla fine non riuscirono a vincere appunto la resistenza degli arditi del popolo e della popolazione di Parma. Si tratta di un unicum: pochi mesi prima della marcia su Roma e dell'arrivo al governo e della creazione del primo governo Mussolini, che darà passo poco dopo, come sappiamo, alla dittatura con la svolta del 3 gennaio del 25, e che si può solo menzionare un altro avvenimento vicino a quello di Parma, parallelamente appunto a questo di Parma, che sono i fatti di Sarzana e che si tennero l'anno precedente, nel 21, no? Sono però degli unicum. Noi andiamo avanti, Banzo, perché il tempo stringe. Volevo sottolineare, Steven, prima di proseguire, appunto abbiamo detto seguiremo cronologicamente i fatti raccontati, ovviamente vale la pena ricordarlo, le canzoni non seguiranno un andamento cronologico, certo. Quindi la prossima canzone sicuramente non parlerà di neofascisti, ma può fare riferimento, come noterete, a un'epoca completamente diversa, ecco perché questo brano dei Gang era del 2015. Eh sì, e invece il prossimo brano è del Banco del Mutuo Soccorso, torniamo agli anni 70, è stato inciso nel 76 e parla di una data simbolo, il 10 giugno del 1924, che è il sequestro e poi l'uccisione di Giacomo Matteotti. Eccolo qui, il Banco del Mutuo Soccorso. Ed è un brano strumentale, come avete sentito, questa 10 giugno 1924, assassinio di Giacomo Matteotti, il Banco del Mutuo Soccorso, 1976, non mancano mai i brani strumentali nei nostri monografici, e per parlarne cedo subito la parola e do un caloroso benvenuto al nostro Fausto De Salvia. Fausto, bentornato, perché è a te tra l'altro che dobbiamo la selezione di questa e quella preparazione di questo monografico appunto sui 100 anni di fascismo nelle canzoni. Certo, Steve, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere grandissimo poter partecipare ai nostri speciali monografici, ecco, quindi speciali e monografici che stiamo producendo in gran numero in questo periodo, ed è sempre bello poter selezionare brani anche meno noti come questo, perché questo è un brano di una colonna sonora, la prima colonna sonora che ha realizzato il Banco. Quindi uno penserebbe al Banco di Mutuo Soccorso, al suo storico cantante che era Francesco Di Giacomo, purtroppo venuto a mancare un po' di anni fa. E invece qui abbiamo uno strumentale, è tutta una colonna sonora interamente strumentale e anche sperimentale in alcuni tratti, per un film televisivo, Garofano Rosso, che in parte, diciamo, liberamente tratto dal omonimo primo romanzo di Vittorini, perché diciamo che si concentra anche più sulla parte, diciamo, impegnata del periodo, visto che siamo nella Sicilia dei primi anni del regime, e quindi naturalmente il passaggio del Rito Matteotti, dell'avvio verso la fine del paravento falsamente democratico del primo governo Mussolini era di là da venire, ecco. Sì. È un brano molto bello e appunto ci riporta anche con questo inizio, Assassini, che si sente appunto cantare all'inizio della dittatura. E noi, Fausto, ora andiamo avanti perché troviamo un altro brano dagli anni 70, passiamo alla fine degli anni 80 e troviamo un grande artista, tra l'altro siciliano, Franco Battiato, in questo caso accompagnato da Giuni Russo, La lettera al governatore della Libia. Parliamo un po' del colonialismo africano e cerchiamo di sfatare anche con questo brano molti dei miti sugli italiani brava gente, no? È un colonialismo per così dire benigno e bonario, che non è stato affatto così quello italiano né in Libia né in Etiopia. Una casa antica e bella, piena di foto di regine e di bandiere. Aspettavamo il console italiano. La fine dell'estate fu veloce, nuvole nere in cielo e qualche foglia in terra. Carico di lussuria si presentò l'autunno di Bengasi. Lo sai che desiderio della mano, l'impulso di toccarla. Ho scritto già una lettera al governatore della Libia. Trafficanti d'armi occidentali passano coi ministri a fianco alle frontiere. Andate a far la guerra a Tripoli. Nel cielo vanno i cori dei soldati contro a Muhtar e Lorenz d'Arabia. Canti popolari da osteria. Lo sai che quell'idiota di Graziani farà una brutta fine. Ho scritto già una lettera al governatore della Libia. Eh sì, una versione live, questa tratta da Giubbe Rosse di Franco Battiato. Banzo, però si tratta in realtà di un brano che Battiato, che qui interpreta con Giuni Russo, scrisse proprio per la cantante palermitana, ma che lei incise nel suo primo disco dell'81, però insomma non cantando un verso. Esatto, il brano è tratto dal primo album di Giuni Russo, Energie del 1981, credo di aver detto molte volte nel corso di tanti anni di Baldone che si tratta di un capolavoro assoluto della musica italiana, brano scritto da Battiato e Giusto Pio, insomma, è un team creativo di assoluto rilievo. E per quanto riguarda il verso che menzionavi, ecco, in questa versione avete sentito "Lo sai che quell'idiota di Graziani farà una brutta fine", che era stato espunto da Battiato stesso dalla versione cantata da Giuni Russo nel disco dell'81, ma poi incluso in questa versione dal live Giubbe Rosse del 1989. Il contesto è quello del colonialismo italiano, siamo nei primi anni 30, la cosiddetta riconquista della Libia guidata da Graziani, per Rodolfo Graziani, personaggio che insomma ha avuto un ruolo rilevante nel fascismo, è stato vice governatore della Cirenaica, in seguito anche ministro della Repubblica Sociale, e poi poco prima della morte avvenuta nel 1955 aderì al Movimento Sociale Italiano, diventandone anche presidente onorario nel 1953, mi sembra, e quindi un personaggio che non aveva rinnegato in nessun modo i suoi trascorsi e che fu definito dalle Nazioni Unite criminale di guerra, anche se poi il processo, diciamo, che si risolse con una sentenza abbastanza mite. Ecco. Ed è importante anche sottolineare, appunto, come dicevo prima di ascoltare il brano, il ruolo del fascismo e dell'esercito italiano anche prima, nell'epoca liberale, nelle colonie, quindi insomma cercare di sfatare questo mito degli italiani brava gente, perché insomma, tra l'altro, la riconquista, per così dire, della Libia da parte di Graziani e Badoglio a fine anni 20, primi anni 30, si fece proprio insomma con un vero e proprio genocidio e aprendo anche dei campi di concentramento dove la gente purtroppo moriva come mosche. Banzo, andiamo avanti e rimaniamo in Africa, andiamo a un brano di qualche tempo fa, sì, proprio degli anni 30, del 1936, quando si concluse praticamente la guerra in Etiopia o in Abissinia. Andiamocela a sentire. Africa, Mussolini won from the emperor. Abyssinia appealed to the League for Peace. Mussolini's actions were like a beast, a villain, a thief, a highway robber, and a shameless dog for a dictator. Crossed the border and had it more. The emperor had no intentions for war. That man I call a criminal. The man destroyed churches and hospitals. He said expansion he really needed. He had 45 million heads to feed. Why you don't attack the Japanese, England, France, or hang on Germany? The man want to kill King Haile Selassie. To enslave his territory, they began to cry for food and water in that burning desert of Africa. We have diamond, ruby and pearl, platinum, silver and even gold. I don't know why the man making so much strife, I now believe he want Haile Selassie wife. If he want gold as a dictator, try in Demerara, Venezuela, or Canada, or Austria-Hungary, or else in America. Lui è The Tiger, o meglio dire The Growling Tiger, The Golden Africa è il titolo di questo brano, che è stato registrato esattamente, Fausto, in realtà un mese prima dell'entrata ad Addis Abeba delle truppe fasciste italiane, il 2 aprile del 36 a New York. Ma ascolta, spiegaci un po' questo brano, appunto, da queste sonorità latinoamericane, un calipso contro Mussolini. Sì, effettivamente, è proprio un calipso contro Mussolini. Il cantante, l'autore è Neville Marcano, spero di aver azzeccato la pronuncia, ed è a Trinidad e Tobago, quindi siamo, diciamo, un po' distanti dall'Etiopia, ma è uno dei primi e più famosi interpreti del calipso, che però, appunto, ovviamente parteggiando naturalmente per l'Etiopia e per la figura di Haile Selassie, decide di incidere questo brano, che ha un testo piuttosto esplicito. Traducendo al volo alcuni passaggi, Mussolini vuole l'oro dell'Africa dall'imperatore, agito come una bestia, un bruto, un ladro, un bandito di strada, un dittatore svergognato come un cane. E dice, aveva 45 milioni di bocche da sfamare, e allora perché non ha attaccato i giapponesi, l'Inghilterra o la Francia o la Germania? Quindi questo è un po' in sintesi il testo del brano. Eh sì, è molto bello, un testo molto bello e un brano davvero interessante, no? Da riscoprire. Noi rimaniamo ora al 1936 e andiamo ad ascoltarci un jazz di Gorny Kramer che si intitola Crapa Pelada. Immaginatevi voi a chi può fare riferimento. Thank you. Sigourney Kramer e la sua orchestra Crapa Pelada, 1936, una canzone banzo uscita poco dopo appunto la proclamazione dell'impero, no? Maggio 1936, dopo la conquista di Addis Abeba. Sì, che fu il momento di massimo consenso popolare del regime. Qui appunto non c'è sfasamento fra i fatti storici e la canzone collegata, diciamo, e si tratta di un esempio delle cosiddette canzoni della fronda, cioè le canzoni che ovviamente in un clima di censura imperante cercavano di criticare il fascismo in modo obliquo, perché come sottolineavi tu, chi sarà mai Crapa Pelada? Si trattava di una filastrocca milanese, però appunto non è difficile immaginare, conoscendo ecco, i trascorsi tricologici del nostro dittatore fascista, a chi si potesse riferire. E quindi volevo sottolineare, a livello di piccole curiosità, che innanzitutto questo brano di Gorni Kramer, che per il nome venne considerato da molti italiani stranieri, in realtà era di origine mantovana, il suo nome vero era Francesco Kramer Gorni, Kramer è il secondo nome, in omaggio a un ciclista, cosa piuttosto bizzarra, ed è un brano appunto jazz, un genere avversato dal regime. E Gorni Kramer si rifà alla melodia di un famoso brano di Duke Ellington, ed è molto interessante sottolinearlo non solo perché, come ho detto, il regime avversò il jazz come musica straniera, esempio di meticciato e così via, ma perché, come è noto, uno dei figli del Duce, Romano, divenne nel dopoguerra un rilevante jazzista che appunto con Duke Ellington mantenne anche un rapporto di amicizia, a quanto leggo, benché diciamo non avesse rinnegato ecco la storia politica del padre, o almeno non apertamente, appunto abbracciò un genere che il regime sicuramente non approvava. Eh sì, e noi andiamo avanti, adesso facciamo veramente un volo pindarico, perché sentite un po' che musica ci andiamo a sentire dopo Gorni Kramer e il jazz degli anni 30. Thank you. Luciano Serra Pilota, si intitola questo brano del 1983, tratto dal primo album dei Righeira, un volo pindarico notevole, Fausto, per parlare appunto di un film che ebbe molto successo nel 1938, appunto intitolato Luciano Serra Pilota, diretto da Goffredo Alessandrini. Esatto, come diceva il buon Benito, la cinematografia è l'arma più forte e quindi il regime, per accompagnare la conquista del grande impero, naturalmente produce numerosi film e favorisce la produzione di film a tema. I figli di Alessandrini è questa storia di redenzione, amicizia virile che si svolge appunto sugli altopiani e nei cieli d'Etiopia. Tra l'altro vince, guarda caso, la Coppa Mussolini, antesignana del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. E diciamo che i Righeira rendono a modo loro omaggio a questa epopea del militarismo fascista, perché naturalmente quel suono di aeroplano sul finale, comunque, diciamo, pensando a come sono i Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota, ricordiamo, non ci viene subito in mente, diciamo, un passo marziale, quindi diciamo che c'è magari la passione per il futurismo, ma sicuramente anche una notevole presa in giro, ecco. Sì, sì, sì. E noi andiamo ora in Sicilia, anzi ci torniamo, un brano di pochi anni fa, 2019, di Cesare Basile, L'Arvulo Russo. Vediamo se capite un po' di cosa parla, poi ve lo spieghiamo noi in ogni caso. Italia la sta città che pare tutto mare, e tutto mare, marionnecchie, ma non te può beare. Italia la sta città che pare tutto mare. E c'è un arvolo rosso in faccia a sto gran mare, chi ne cucina sape perché, perché te può affettare. A c'è l'arvolo rosso in faccia a sto gran mare. Rece che un tempo fece frutto saviato, che frutto è? Cuore satario, amore scarpesato, fece che un tempo fece frutto traviato. A scudo della razza sperro fa sentenza, ci cavo malo all'umanità, tu sembra la semenza. A scudo della razza sbirro fa sentenza. Che rosso è, ricchi colori, sto sangue brasteato, molina rimmi quando è rosso sangue l'ho sgacciato. Ci fecero una barca di carta bollata, già vanno mare, c'è la virtù, orrare campestata. Con nappe, nappe a mascolanza, fossa nata. Con nappe, nappe a mascolanza, fossa nata. L'arvolo russo, Cesare Basile, tratto dal suo album Commedia del 2019, ispirato dal libro La città e l'isola, scritto da Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio. Magari spieghiamo un po', Banzo, ai nostri ascoltatori qual era il riferimento in questo caso appunto con la storia del fascismo. Beh, innanzitutto il titolo tradotto in italiano è L'albero grosso, pensavo rosso, però insomma correggetemi se sbaglio. E sì, appunto, parla della persecuzione degli omosessuali messa in atto dal questore catanese Alfonso Molina con una circolare del gennaio del 1939, che è anche una conseguenza dell'inasprimento della persecuzione verso le categorie socialmente difformi a partire dalle leggi razziali del 1938. E quindi in concreto l'episodio è una retata nella notte fra il 14 e il 15 gennaio del 1939 che ebbe come bersaglio gli omosessuali catanesi. E poi su questa tematica, diciamo leggera deviazione ma tematicamente no, volevo segnalare che a chi potesse interessare esiste una straordinaria graphic novel dal titolo In Italia sono tutti maschi, di Luca De Santis e Sara Colone, uscita nel 2008 per Kappa Edizioni, che tratta un tema simile, diciamo, cioè la vita di un gruppo di omosessuali in confino in un'isola delle Tremiti fra il 39 e il 40, che è un capitolo che, diciamo, nella storia italiana e anche all'interno della storia del fascismo è molto poco trattato. Eh sì, tra l'altro Cesare Basile era stato più o meno nel 2018-19 nostro ospite in studio a Zibaldone quando aveva partecipato qui a Barcellona al Primavera Sound. Altro volo pindarico, rimaniamo nel 39, però insomma in realtà è un 39 un po' particolare. Sopra un prototipo di missile tedesco, con sei gallette cada uno come desco, i nostri eroi van dritti al cuor della marziana, le verdi antenne al nostro duce piegherai. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor, fascisti su Marte, con un moschetto e un me ne frego dentro al cuor. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, irrevocabili, conquistator del sangue e colodor, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Fascisti su Marte, pianeta rosso aspetta che veniamo da te. Fascisti su Marte, noi ti daremo al nostro duce, al nostro re. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, irrevocabili, conquistator, il mondo al nostro dor, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Vabbè, a molti questa canzone suonerà, no? Era il 2002, Fascisti su Marte, la voce è quella di Corrado Guzzanti. Banzo, per ricordare un avvenimento che in realtà non è mai successo, dai, lo diciamo. No, non è successo, no. Per non fortuna che i fascisti abbiano mai colonizzato Marte, però diciamo che l'ucronia è sempre stato un settore narrativo molto interessante. E questa gag dei fascisti su Marte nacque nel programma di Guzzanti, Il caso Scafroia, poi diciamo che continuò a crescere fino a diventare un lungometraggio del 2006. Non c'è bisogno di dilungarsi eccessivamente sulla genialità di Guzzanti, che anche questa canzone riprende varie canzoni, diciamo, di epoca fascista e riesce a ricostruire un'atmosfera al tempo stesso fedelmente fascista e completamente esilarante, ecco. Sì, andiamo adesso a trovare un altro genio, andiamo però agli anni 60, a Enzo Iannacci, Il primo furto non si scorda mai. Furto non si scorda mai, un vecchio ergastolano me l'ha detto, si comincia quasi sempre dai pollai, fuggendo con un pollo stretto al petto. Ero appena avanguardista, giovane incensurato, giovane incensurato, ero appena avanguardista, io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo. volevo farci un po' il callo. Pollai, io non ne trovai. Ma che rogna disastrosa, c'era anche l'oscuramento, la pioggia, la neve, anche il vento, ed in bianco venni a casa. Ai ai ai ai, ho urlo, non l'ho scordato mai. Ai ai ai ai ai ai, ho urlo, non l'ho scordato più. Metto un bel barco in cocciai, in un pollaio grande un po' isolato, scassai la rete, dentro mi cacciai, e vidi un bel tacchino appollaiato, ero appena avanguardista, non conoscevo i tacchini, chi conosceva i tacchini era giovane fascista. Quando ecco una mano allungai, era braccare il venuto, una beccata beccai che mi trovai svenuto. Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino omicidiale era un'aquila imperiale. Ma che razza di destino, io fui spedito al confino, e poi seppi che fui condannato per vilipendio dello Stato. Perciò il primo furto non lo scordo mai. La genialità di Enzo Iannacci. Spiegaci un po', Fausto, questo brano, perché l'abbiamo scelto. Insomma, ascoltando il testo si capiva il vincolo con il monografico di quest'oggi. Esatto, esatto, perché ovviamente Iannacci ha scritto molti brani sui temi legati alla Seconda Guerra Mondiale, però dico, scelgo qualcosa di particolare, e qui siamo al tempo dell'oscuramento, quindi siamo coi primi bombardamenti sulle città italiane, naturalmente la guerra per il fascismo e per l'Italia non va tanto bene, diciamo, per usare un eufemismo, e in questo contesto si inserisce l'eroica vicenda di uno che era appena avanguardista e che fa fatica a distinguere un pollo da un'aquila imperiale, con i risultati che abbiamo sentito. Eh sì, un brano molto bello, insomma, che poi tra l'altro Iannacci cambiò negli anni 90, sostituendo i riferimenti al fascismo a quelli al pentapartito. Andiamo esatto, avanti. Al testo di Dario Fo, ricordiamo, al testo di Dario Fo. Sì. Mi sono dimenticato. Sì, e andiamo avanti, perché qui andiamo ad ascoltarci veramente una chicca del tempo che fu. Sentitevela bene. Sentere che roba orosa, stella che pitansela. Che il venfiora dell'inci quan sarà ben ben rusti. Rosa bella sta sentì, c'ha pal duce far rusti. Che il beuter che il mette mi l'ho comprato in quel mes di. Con contorno de spinaste che gli aggiunge la petac. E con quater fasuli farinacce e favuli. Te sentere che roba o rosa stella. Che pitansera che ventiora dell'inci quan sarà ben ben rusti. E qui rimaniamo al 1942, però si tratta, Fausto, di una registrazione del 1964. Enrica Calvi, Rosa Stella, dimmi sì, Rosa Bella del Molise, è un anonimo ed è appunto uno di questi stornelli che criticano fortemente il fascismo pochi mesi prima della caduta del regime. Esatto, siamo sempre alla fine 42, inizio 43, e si diffondono sempre più gli stornelli, ovviamente cantati sulla musica delle canzonette in voga all'epoca, che il popolo ascoltava la radio, ovviamente. In questo caso la canzone Rosa Bella del Molise è un successo di Ernesto Bonino, che viene naturalmente parodiato, il dialetto bergamasco, comunque traducendo al volo, Rosa Stella stai a sentire, prendi il duce, fallo arrostire, con un contorno di spinaci, aggiungi una petacci, quindi c'è anche l'assonanza, sì. Sentirai che roba, che pietanza uscirà da lì, quando sarà ben rustito, cioè ben arrostita naturalmente, sì, sì. È un brano tratto dalle raccolte dei Dischi del Sole, canti della resistenza italiana che uscirono a metà degli anni 60. Eh sì, è che insomma dobbiamo questo grande lavoro a Cesare Bermani, tra gli altri che fecero questo lavoro di archeologia della canzone popolare. E rimaniamo in quel periodo, i mesi precedenti alla caduta del regime, non potevamo non mandare in onda questa canzone in riferimento al primo grande sciopero che si tenne a Torino il 5 marzo del 43, parliamo della fabbrica degli Stormy Six. Marzo del 43, nel fango le armate del duce e del re, gli alpini che muoiono traditi lungo il Don. 100 operai in ogni officina aspettano il suono della sirena, rimbomba la fabbrica di macchine e motori, più forte il silenzio di mille lavoratori. E poi, quando è l'ora, depongono gli arnesi, comincia il primo sciopero nelle fabbriche torinesi. Ragazzo a dar la voce, si ferma un'altra fabbrica, altre braccia vanno in croce e squillano ostinati i telefoni in questura, un gerarca fa l'impavido ma comincia a aver paura. La patria e l'impero, sempre più donne vestite di nero, allarmi che suonano in macerie le città. Quindici marzo, il giornale a Milano lancia l'appello, il PC clandestino, gli sbirri controllano, fan finta di sapere, si accende la voglia delle camicie nere, ma poi quando è l'ora si spengono gli ardori, perché scendono in sciopero 100.000 lavori. Armata di bastone, va dietro fronte subito sotto i colpi del mattone, e come a Stalingrado i nazisti son crollati, alla Breda Rossa in sciopero i fascisti son scappati. E come a Stalingrado i nazisti sono crollati, alla Breda Rossa in sciopero i fascisti sono scappati. Alcuni dei versi di questa fantastica canzone degli Stormy Six, Banzo, la fabbrica, tratta da un concept album, il primo disco italiano, Un biglietto del tram, questo era il titolo, uscito nel 75, che cantava la storia della lotta di liberazione. Hai detto tutto tu, Steven, disco straordinario, varrebbe la pena di fare un monografico su questo disco di per sé. Questa canzone in concreto è storicamente accoppiata a un'altra, perché vengono sempre presentate unite. Stalingrado, La fabbrica, la prima parte del brano, in realtà sono due canzoni praticamente separate, parla ovviamente della battaglia di Stalingrado, mentre questa, La fabbrica, parla del primo sciopero alla Fiat di Mirafiori nel marzo del 43, che si può considerare un po' il primo nucleo della resistenza. Quindi vediamo che i due brani sono stati uniti, oltre che per ragioni anche di contiguità musicale o scelta creativa degli autori, anche perché raccontano una resistenza, in un caso ai nazisti e nell'altra ai fascisti, su due sponde diverse, ecco. Eh sì, e a proposito dell'inizio della resistenza, andiamo ora ad ascoltarci una canzone che parla proprio del 25 aprile del 1945, festa d'aprile, in questa versione uscita una decina d'anni fa, cantata dallo Stato Sociale. Già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non sono tonti, che sta per arrivare, che sta per arrivare la resa dei conti, la resa dei conti. Nera camicia nera, c'è nera camicia nera, che noi abbiamo lavata, che noi abbiamo lavata. Non sei di marca buona, non sei di marca buona, ti sei ritirata, ti sei ritirata. Certo la moda cambia, certo la moda cambia, quasi ogni mese. Fascista, fascista, sa dice il borghese, forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti, a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile e Evviva i partigiani e festa d'aprile cantano lo Stato Sociale in questo brano del 2012 che ovviamente Fausto non era loro, è un brano che hanno cantato in tanti nel passato. Esatto, ufficialmente gli autori sono Sergio Liberovici e Franco Antonicelli, quindi ovviamente grandissimi nomi della canzone d'autore di ricerca italiana, e l'hanno composta nel 48, quindi subito dopo la fine della guerra, rielaborando i testi di alcuni stornelli che proprio nel 45 venivano mandati in onda da una radio partigiana, Radio Libertà, che trasmetteva da, quanto ho letto, da Sala Biellese. E quindi questo è il risultato, ovviamente lo Stato Sociale ne dà una sua versione personalissima che abbiamo avuto modo, abbiamo gradito, abbiamo voluto inserirmi in questa raccolta. Eh sì, era parte di una compilation, il Calendisco, creato dalla Garrincha Dischi, uscito nel 2012, era un concept dedicato ai mesi dell'anno. Tra le tante versioni famose di questa canzone ricorderei quella di Giovanna Daffinio, più recente anche degli Yo-Yo Mundi. Andiamo avanti perché troviamo un altro grande nome dopo Giovanna Daffini, insomma, o Sergio Liberovici, Fausto Amodei, con questa Dongo. Siamo sempre nell'aprile del 45. Del fuduce i giornali han narrato la sua ultima disavventura, che seguì alla fatal sua cattura e il destin che su lui si compì. Come fu Mussolini arrestato, custodito fu insieme a Claretta, messo in una colonna stanzetta, dove stette all'incirca due dì. Buia e tetra era quella stanzetta, ben guardata da due partigiani, che la sorte avean nelle mani, di chi fu la cagion d'ogni mal. Lui fu messo insieme a Claretta per goder tutto quel che doveva, per goder tutto quel che voleva dell'Italia il fratel suo carnal. Nella stanza entrò il giustiziere, Mussolini vicino era al letto, fuor dall'orbita gli occhi e nel petto un tremendo mortale terror. Il tiranno portava un berretto della fu guardia repubblichina e un cappotto color nocciolina, era un uomo finito di già. Mussolini ascese al potere con la forza in quel di già lontano, ma la forza di ogni italiano annientò quel crudele oppressor. Nel vedere il patriota gli ha detto: cosa c'è che venite qui a fare? Ambedue vogliam liberare, sì, davver questa è la libertà. Mussolini da buon cavaliere, or quel luogo lui sta per lasciare. Precedenza la donna vuol dare, ma precederlo lei non lo vuol. Detto ciò il giustiziere decise di colpire il tiranno e Claretta. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù. E in questa Dongo ricorda gli avvenimenti del 28 aprile del 45, la fine della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto la cattura e insomma la fucilazione di Benito Mussolini, arrestato due giorni prima sul lago di Como, nel paesino di Dongo, dai partigiani. Banzo, una versione interpretata da Fausto Amodei. Sì, poi Mussolini non sarà giustiziato a Dongo, ma sempre nella provincia di Como. Altri sì. Gerarchi fascisti invece moriranno. Giulino di Mezzegra. Grazie per la precisione, preciso e puntuale questa volta tu. E, altri gerarchi invece moriranno a Dongo. E questa è una canzone anonima perché fu composta proprio da nell'immediatezza dei fatti e fu recuperata da Amodei nell'ambito del lavoro del collettivo Cantacronache nel 1964, e questa è in effetti la prima incisione. Amodei è ovviamente anche autore della famosissima Se non li conoscete, che però questa volta abbiamo omesso perché l'abbiamo già trasmessa altre volte ed è ovviamente è comunque una canzone imprescindibile quando si parla di critica del fascismo. Eh sì, e su cosa succede dopo, almeno insomma sempre in questa fase, i giorni della liberazione, c'è un'altra bellissima canzone dal primo disco di Flavio Giurato, 1978, si intitola Storia di un'osteria. Storia di un'osteria, c'è chi viene e chi va via, c'è chi mangia, chi s'abboffa e ride. Viaggio d'un carrozzone, era pieno di persone, lo sono nati tanti amici ben vestiti. Signori al conto, sono nati tutti via. Festa del baraccone, nella piazza c'è il pianone, ma l'attore non s'atteggia, more. Sangue che se pretenne, siamo cento, siamo mille, chi ha sofferto mossa imbroglia de dolore. Signori al conto, sono nati tutti via. Il sangue che se pretende, questa partaccia mo a che serve, a lasciare le cose sempre tali e quali. Storia di un'osteria, c'è chi viene e chi va via, c'è chi mangia, chi s'abboffa e ride. Signori al conto, sono nati tutti via. Storia di un'osteria, 1978 è il titolo di questo album di Flavio Giurato, di questa canzone, scusate, di Flavio Giurato. Il disco Fausto si intitola Per futili motivi e questo ci spiega forse anche un po' di più questo concept album, perché lo abbiamo inserito in questo monografico. Esatto, perché questo è il brano finale di un po' più di un album concept che racconta le vicende di un ragazzo romano, giovanissimo, che ha 18 anni, si arruola volontario nella guerra, appunto per futili motivi, perché si sente forte delle sue convinzioni fasciste con le quali ha convissuto fino alla nascita, ma che ben presto dovrà rivedere. E questo è il brano finale che paragona il fascismo, i fascisti, ad una tavolata cacciarona ingorda che al momento di pagare, come diciamo sappiamo essere tipico di quella parte, se la svigna senza assumere le proprie responsabilità, ecco. Rimaniamo negli anni 70, troviamo 5 anni prima questo bel brano di Enzo Del Re, un altro nome importante dei cantautori impegnati negli anni appunto del lungo 68, si intitola I Manifesti. Al tempo degli fascisti, attaccavano i manifesti, li femmena anna figlia, l'upopola da pumenta, penna figlia 3.000 lire, si era mascolo 5.000 lire, e chi lo chiamava Benito, doppio premio e favorito, che da femmina canamf chiave, sciava pregassand creus, a che se che uamaure de deghie, faccia vive il cumanna cneghie. Sono passati un poco d'anni, un paese pieno di guagnone, tutto scazzato e affamato, questo premio n'ha pregio potete, tutto scazzato e affamato, senza scuola e disoccupata, mua sorte d'ogni guagnauna, io scritta strada dell'emigrazione, che una valigia di cartauna, bendezione alla nazione. Due c'ha sorta fregatura, cussa premia na pregepetete, ue allo sangue da chi ve morte, e catacchete pur li manifesti, ue allo sangue da chi ve morte, e catacchete pur i manifesti, ue allo sangue da chi ve morte, e catacchete pur i manifesti. E lui Enzo Del Re, 1973, questa I Manifesti, Banzo, era contenuta nel suo primo disco Maul, tra l'altro insomma si sente l'accompagnamento molto scarno in cui appunto rifiutava di suonare strumenti musicali tradizionali, Enzo Del Re non solo in questo album, ma percussioni appunto costruite con materiali di recupero, in genere era famoso vederlo suonare con la sua sedia. Sì, è proprio così, il disco si chiama Maul perché Mola è Mola di Bari, il suo luogo d'origine, e come sottolineavi giustamente, Enzo Del Re non faceva uso di strumenti musicali, usava queste sedie che percuoteva, e in effetti nel 2010, un anno prima della sua morte, un documentario a lui intitolato fu intitolato Io la mia sedia, quindi c'è proprio questo riferimento allo strumento. Enzo Del Re, autore del brano Lavorare con lentezza, che poi divenne sigla dei programmi di Radio Alice a Bologna e che arrivò poi al film di vari anni dopo, che raccontava quell'esperienza. Per quanto riguarda il brano, invece, c'è una descrizione delle politiche di incremento demografico spinte dal fascismo, con premi in denaro meno per le figlie femmine, più per i figli maschi, ancora di più se veniva chiamato Benito, che poi nel dopoguerra porta a un sud pieno di giovani disoccupati che sono costretti ad emigrare. Eh sì, noi adesso andiamo avanti e dagli anni appunto 40 passiamo oltre e ci avviciniamo appunto al lungo 68 con questa canzone che ci parla di un avvenimento chiave nella storia dell'Italia repubblicana avvenuto nel 1960. Sono I Giardini di Miro e cantano questa Bufera. Sangue del nostro sangue, che è sangue di noi tutti. Gli occhi dei compagni si son tenuti asciutti. sangue di noi tutti. Sia ben chiaro quello che non vedi, è sangue che non butti. Ed uguale la canzone che resta da cantare, morti di tutti i morti, uscite dalla fossa con noi. Per quelli che sono stanchi, incerti, in questi giorni mesti, morti di tutti i morti, come un tempo sull'Italia intera. Soffia il vento, fa che sia bufera. Tutti morti su queste parole, come un tempo una schiera. Soffia il vento, fa che sia bufera. E allora se sapera, morti di tutti morti, morti nel vento, nelle parole, morti nelle canzoni. Soffia il vento, fa che sia bufera. Questa bufera cantata dai Giardini di Miró con Angela Baraldi, Fausto, ci porta al 7 giugno del 1960, la strage di Reggio Emilia. Sì, Steven, il 7 giugno del 60, dopo le proteste che si sono svolte in gran parte d'Italia, a partire da Genova, contro il congresso del Movimento Sociale Italiano previsto in città, e naturalmente anche per le politiche, per la nascita del governo Tambroni, con l'appoggio esterno del movimento sociale, anche a Reggio Emilia arrivano le proteste, le forze dell'ordine sparano ad altezza uomo e abbiamo 5 vittime. Immediatamente Fausto Amodei compone un brano sull'onda emozionale della strage e il brano è la famosissima Per i morti di Reggio Emilia. Però abbiamo pensato, non mettiamola, poi Amodei abbiamo già messo un brano, mettiamo qualcosa di diverso. E io ho scelto questa versione che ne hanno dato i caveraghesi Giardini di Miró, quindi in primis Corrado Nuccini e Luca Reverberi, che nel 2010 per la compilation Materiali Resistenti, che era un tentativo di riproporre la formula di materiale resistente realizzato da CSI e soci nel 1995, hanno proposto questa praticamente rielaborazione del brano, quindi con il testo ovviamente rimescolato, riattualizzato, e la partecipazione alla voce di Angela Baraldi. Eh sì, noi andiamo avanti e troviamo una cosa un po' particolare, il 68 visto da destra, per così dire. Sentitevi qui questa Camillo dei Predappio Disco Dux. Esercizi ginnici, mia madre sembra incinta, rombava la sveglia e gettato il cuore oltre l'ostacolo, saltavo giù dal letto. Ricordo che arrivato a scuola c'erano quei tre capeloni con l'eschimo che mi sbarravano la porta. Era il maggio del 46esimo anno dell'era fascista, per le plutodemocrazie occidentali il 1968. E questi devoziati mi dicevano, cioè, c'è l'occupazione? E io gli rispondevo, cioè cosa? Alla scuola Gentigliani io ci voglio andare. Non voglio che poi finisse che il voto di condotta non fa media. E poi, cosa sono queste assemblee? Questa partecipazione. Li vedevo attraverso le grate della palestra nei loro promiscui sacchi a pelo, disposti all'amore di gruppo. Con loro, quel professore un ticcio, occhiali spessi e Gramsci sotto braccio. Io e i miei giovani amici camerati l'avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile, Camilo! Sapete, mamma, mentre voi donate nuovi pargoli alla patria, ho visto quel professore accondiscendente ai peggiori vizi. Capite? Loro non studiano e lui non li induce a ferrea dottrina. Anzi, si sforza di aiutarli, di comprenderli. Altro che comprensione, in ginocchio sui ceci! Ma non pensate, cara mamma, che io sia prevenuto. L'altro giorno viene in classe e ci dice che possiamo dargli del tu. In gita nella perfida Albione, io e il giovane camerata Ermandibola lo abbiamo visto fumare gli spinelli di droga con un ragazzino della mia classe. Povero ragazzino, chissà se sarà rimasto integro. Perché Camillo è un pederasta! Camillo gli piace il culo! Camilo non arrivò alla pensione. Nella cantina di casa sua nascondeva un ciclostile. Ancora adesso è ospite dello Stato. Ma li vedo ancora ogni tanto ai giardinetti, gli autonomi, ancora con i loro manifesti. Free Camilo! Vabbè, questo brano è una meraviglia, Banzo, però ha bisogno assolutamente di una spiegazione, partendo proprio da chi sono i Predappio Disco Dux e cos'è questa satira che ci siamo appena sentiti. Allora, i Predappio Disco Dux sono evidentemente una sigla fasulla che non ha mai prodotto niente. Il brano fu trasmesso in una puntata del programma Magazzino Bis radiofonico, curato dall'etichetta Trovarobato, quindi dai Mariposa in senso lato, quel collettivo lì, e si rifaceva, perché è un brano del 2006, alla canzone Kappler degli Offlaga Disco Pax, che inaugurava il loro primo album, Socialismo Tascabile, uscito nel 2005. E appunto, come dicevi tu, racconta questo 68 visto dalla prospettiva di un fascista, infatti dice che è il 46esimo anno dell'era fascista, anche se le plutocrazie dicevano che era il 68, e secondo me, questa è una riflessione che mi è sorta mentre ascoltavo, la voce, oltre ovviamente a seguire lo stile parlato di Max Collini, dopo gli Offlaga arriveranno fra poco, secondo me si rifà anche un po' al modo in cui gli Annacci cantava, ad esempio lo abbiamo sentito nella canzone precedente, secondo me è un omaggio agli Annacci, anche se non avremo mai la controprova forse. Concludo dicendo che i Mariposa sono tornati a occuparsi di fascismi possibili col concept album Liscio Gelli del 2020, scusate l'errore. Eh sì, ne avevamo parlato anche a Zibaldone. Andiamo avanti e troviamo sempre negli anni 70 un'altra questione che ha molto a che fare con queste battaglie. Sentitevela qui. Faceva un gran caldo, almirante affamato sbuffava, di mangiare a Bologna sperava, e al sautista ordinò di frenar, per marmotta di Cantagallo, per pranzare e per fare benzina, ma il gran caldo di quella mattina, per un pezzo dovrà ricordar. Poi suoi bravi sedette era stanco, poi si alzò per andare nel bagno, ma lo vide un barista compagno. E la lotta improvvisa scattò. E la lotta improvvisa scattò. C'è almirante si sparce la voce, è arrivato coi suoi camerati, e si aspetta di essere serviti. Oggi in bianco dovranno restare, ma sta un cenno e tutti i compagni, dal self-service ai distributori, dei fascisti e i fucilatori, gli gridavan qui posto non c'è, Marzabotte ancor troppo vicina, faccia presto ad alzare le suore, delle fogne può dir ciò che vuole. Ma Bologna non deve parlare. Fu così che schiumante di rabbia se ne andò la squadraccia missina, pancia vuota e senza benzina, Cantagallo dovette lasciar. Era giugno e sull'autostrada, ma che caldo faceva, almirante affamato spingeva, delle fogne a piedi tornò. Ed adesso com'è naturale, il Carlino offeso si lagna, urla ferma quea buragna. Rifa sesta, gnegnan compare. È molto bella questo brano del canzoniere delle lame, Allarmi sian digiuni, la ballata del Cantagallo, che parla, Fausto, di un avvenimento che forse pochi conoscono, che avvenne il 18 giugno di quel 1973. Sì, Steven, in quella data avviene un particolare avvenimento. Abbiamo uno sciopero del personale dell'autogrill bolognese del Cantagallo sull'autostrada del Sole. Penso che chi ha percorso l'autostrada del Sole se lo ricordi bene. E il personale si rifiuta di servire Giorgio Almirante, che si era fermato appunto per mangiare e per fare benzina, appunto. Cosa succede? Che 16 lavoratori dell'autogrill vengono immediatamente denunciati, rischiano ovviamente di perdere il lavoro, si va a processo e il canzoniere delle lame, storico collettivo bolognese dell'epoca, decide di incidere al volo nel giro di poche settimane un 45 giri che cedono al personale dell'autogrill, che lo vende appunto sotto banco, diciamo al bar dell'autogrill, per finanziare la loro difesa al processo, e infatti saranno tutti assolti 2 anni dopo. Eh sì, almeno dai, una bella notizia questa. E rimaniamo negli anni 70 e troviamo questo fantastico brano interpretato da Fabrizio De André, Le storie di ieri. Mio padre aveva un sogno comune, condiviso dalla sua generazione, la mascella al cortile parlava, troppi morti lo hanno tradito, tutta gente che aveva capito, e il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e si mette a sognare, chiude gli occhi e si mette a volare, e i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che strane creature. Ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo. La mattina legge molti giornali. È convinto di avere delle idee. E suo figlio è una nave pirata. E suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà. Il gran capo ha la faccia serena. La cravatta intonata alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire gli aquiluni, si è seduto tra i ricordi vicini, i rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani. Questa versione, come avete sentito, è di Faber, Fabrizio De André, Le storie di ieri, un brano contenuto nel suo volume 8 del 1974, però Fausto in realtà è una canzone scritta da Francesco De Gregori che gioca sullo ieri, sull'ieri e sull'oggi, sul presente, gli anni 70 e il passato fascista. Sì, Steven, siamo nel 74, quindi è il culmine della strategia della tensione. Abbiamo sia prima Piazza della Loggia, poi Italicus, quindi naturalmente il pericolo neofascista è ben presente a De Gregori, perché è lui l'autore del pezzo. L'ha scritto per il suo album di quell'anno, la famosa Pecora, dalla Pecora raffigurata in copertina, poi l'album si chiama proprio come lui, Francesco De Gregori. L'RCA gli boccia il brano, anche perché c'è un riferimento in un verso ad Almirante, lui prova a togliere il riferimento, non glielo pubblicano lo stesso, e per solidarietà De André, che stava collaborando con lui per volume 8, decide di fare una sua versione, e così magicamente l'anno successivo anche De Gregori potrà inserirlo all'interno di Rimmel, che forse è il suo album più famoso. Eh sì, è un brano molto bello, è tutto da ascoltare. E prima parlavamo degli Offlaga Disco Pax, adesso sì che ci andiamo ad ascoltare una loro canzone, Sensibile. Piuttosto che da un qualche credo. Francesca perché lo scelse come compagno di vita. A questa domanda rispose con una frase da ginnasio nichilista, lapidaria, nel senso di lapide. Ci fossero gli altri ragazzi che aveva frequentato, non c'è dato sapere. Di sicuro Francesca con gli uomini non è stata fortunata. E la parola sensibile resta dubbio ambivalente come il coinvolgimento dei NAR per i fatti del 2 agosto 1980. Francesca Mambro è citata nei ringraziamenti in un disco intitolato Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Sensibili anche loro. Per evitare di confondere la sensibilità con le persone fascista e stragista, stabiliremo dei limiti. Definiamo quindi neosensibilismo il nostro modo di essere sensibili. Che in tutto si distacca dall'ambiguità di Francesca Mambro, da cui ci dissociamo anche per l'uso sconsiderato e irresponsabile del vocabolario. Signora Mambro e il camerata Fioravanti sono fuori di galera. Fa male ammettere che al momento vincono 2-0. Flaga Disco Pax, Sensibile, una canzone del 2008, Banzo, che parlando di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti ci parlava in fin dei conti della strage di Bologna, 2 agosto 1980, visto che parlavamo poc'anzi di strategia della tensione. Sì, evidentemente è una canzone che parla di quell'evento, non potrebbe essere altrimenti. I personaggi citati hanno sempre negato il loro coinvolgimento, lo ricorda anche Collini, abbiamo motivi per non credere loro, ma non crede al loro coinvolgimento neanche l'attuale Presidente del Consiglio, che anche solo, penso, un paio di anni fa invocava la ricerca della verità attraverso la riapertura della pista palestinese. Comunque la strage di Bologna rimane l'attentato più grave nella storia dell'Italia repubblicana. Gli Offlaga ne parlano nel loro secondo disco Bacchelite del 2008, che presto sarà ristampato con gli inediti per il 15° anniversario. E sul 2 agosto volevo citare anche un brano dello Stato Sociale, Linea 30, incluso nel loro disco del 2014, L'Italia Peggiore, che curiosamente si rifà come stile ancora una volta agli Offlaga Disco Pax, quindi sarebbe già il secondo omaggio dopo quello di Trova Robato che abbiamo sentito prima. Eh sì, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, ci rimangono ancora alcuni minuti, andiamo a bomba per parlare di cose ancora più vicine a noi. Parliamo del 1994, l'arrivo dei neofascisti al potere, la vittoria elettorale di Berlusconi, il primo governo 1994 con Bossi, ovviamente anche l'MSI di Gianfranco Fini, assalti frontali fascisti in doppio petto. porta, storia strana in strada bruciata. Roma è nervosa, bolle col partito primo nero in casa. So che dentro mi borgata, dispersi, pazzi, volano come il verme della villa d'Arcore. Libera caduta tra le nuvole di un'illusione. Bene, così stanno le storie. Un milione di persone in piazza non basta. Senza più cittadinanza, il fumo si alza solo. Sento parlare della razza pura, non era storia conclusa, chiusa. Così sono cresciuto razza umana, ma il teleschermo ha cancellato il tempo. Qua chi ha telecomando manda indietro il mondo. Perché ho già visto il film Mega il mondo, tragica trama, la gente in fila che si incammina. In contrastale non esiste da arrancando, sale in cima, ad aspettarla c'è una ghigliottina. Il tuo posto è un premio, un regalo dato, e tutti grazie per la merda di lavoro rimediato. Eccoli i fascisti in doppio petto, ci sono addosso e conflitto parla. Puoi parlare ancora, puoi parlare, parla. L'Italia già lontana e si prepara alla guerra. Guardati bene, ti mettiti due panni migliori. Un bacio dato in fretta ai genitori, suonano i tamburi. Anni difficili davanti, per tutti i figli di danni. Sono un partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Anni difficili davanti, per tutti i figli di danni. Sono un partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Ora che siamo un bersaglio chiedo un consiglio. Dov'è la tua via d'uscita? Dov'è finita? Andiamo, guardo oltre il finestrino, c'è le gocce della pioggia che lo appanna. Cerco gli angoli e gli incroci, cerco musica che arriva dalla folla. Storia strana, fuori strada, ognuno ha la sua casa. Ti capisco certo, Roma è nervosa, ti stai perdendo nel caos. Storia pericolosa, sì lo so, che non è colpa tua. Tu non sei razzista, sei realista, sei nessuno. Anonimo nel panico, un senza nome. Un italiano della sua nazione. Anni difficili davanti, per tutti i figli di Dinamo. Sono partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, l'occhio bello in primo piano. Anni difficili davanti, per tutti i figli di Dinamo. Sono partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Anni difficili davanti, anni difficili, per tutti i figli di Dinamo. Sono partigiano e sarò chiaro, perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Assalti frontali, fascisti in doppio petto, ci parla, ci porta direttamente Banzo questa canzone nella Seconda Repubblica e più o meno anche ci riporta l'attualità. Gran pezzo, gran botta, e sì, siamo sbarcati negli anni 90, ma appunto come dicevi già ai tempi della Seconda Repubblica, con i post-fascisti, Alleanza Nazionale al governo. E in quelle elezioni politiche ne fu primo partito a Roma, quindi appunto è un ambiente, un contesto sociale nel quale crollano le barriere precedenti che avevano comunque limitato l'ascesa, il ritorno al potere di post-fascisti, e ovviamente gli assalti frontali dalla loro prospettiva militante lo sottolineano. Qui accompagnati dai Brutopop, che in quel periodo gli suonavano le basi, perché non si tratta di basi hip hop in senso tradizionale. L'impatto, come ho detto, è fortissimo, ma purtroppo poi da questo primo sdoganamento siamo arrivati alla situazione attuale con questo Presidente del Consiglio. Eh sì, facciamo un salto di 20 anni, arriviamo al 2017, troviamo questo brano di Giancane e Lucio Leoni che gioca con l'ironia, e il titolo è Adotta un fascista. L'ho visto, camminava per strada, bomber alfa e la testa rasata, non curante dei gatti bagnati e della polizia, innocente prodotto randaggio di periferia. Lui da solo salutava la gente, all'apologia di fascismo indifferente. Ma il suo grido d'aiuto non riceve la giusta attenzione, perché è contro natura adottare in questa nazione. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. Affacciati in finestra e guardando l'asfalto bagnato, scrutando dall'alto quel Cristo di nero inzuppato. I due si guardano e dicono: Amaury, tu ricordi Renato? E certo tu parli del nostro bambino mai nato. Adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. E sia russo sia nero, sia frocio d'etero, sia preto o carabiniero, che sia fascio davvero, sia stronzo tenero, oppure che sia come me, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te, adotta un fascista anche te. E beh, dopo gli assalti frontali, un pezzo un po' più ironico che appunto ironizza, c'è della satira, l'avete sentito questo Adotta un fascista di Giancane e Lucio Leoni, Fausto? Sì, Steven, sono passati 20 anni dal pezzo degli assalti frontali, i fascisti in giro per Roma ci sono ancora, ce ne sono purtroppo, credo molti di più, temo molti di più, però ecco, il brano immagina che una coppia omosessuale, vedendo passare un fascista per strada, decida di adottarlo con l'idea, forse anche l'illusione, perché credo che sia difficile poterlo cambiare, però loro pensano che il loro amore lo possa cambiare. È ovviamente un brano satirico di Giancane e appunto Lucio Leoni, che sono due cantautori della nuova scena rock romana, che apprezziamo. Adesso il brano è apparso nell'album Ansia e Disagio e ricordiamo anche che fa parte della bella compilation dedicata alla memoria di Lorenzo Orsetti, che è uscita qualche tempo dopo. Her Dame Ha Made Me, un importante, due importanti artisti. Fausto, siamo arrivati ormai alla fine del programma, quindi innanzitutto ti saluto, ti ringrazio per questo fantastico monografico. Il piacere è tutto mio e al prossimo monografico, perché penso che e il nostro banzo stia preparando qualche sorpresa per i fedeli ascoltatori di Zibaldone, quindi ci sentiremo presto. Eh sì, tra poco ne parleremo durante il mese di maggio, non vi sveliamo ancora l'arcano. Banzo, grazie anche a te di essere stato con noi quest'oggi, ti lascio presentare però il brano con cui ci salutiamo, che è Romanzo di formazione di Francesco Bianconi, uscito appena 2 anni fa. Grazie a te Steven, ci risentiamo ovviamente per la prossima puntata venerdì prossimo. Il brano sì, chiudiamo con una canzone di Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, però qui in versione solista, brano incluso nella riedizione del suo primo album Forever, Forever in Technicolor, che racconta sommariamente un romanzo di formazione di un fascista del terzo millennio. Non è un riferimento diretto a Casa Pound, però appunto racconta diciamo cosa porta una persona a una militanza in quel nefasto settore politico con la penna di Bianconi, particolarmente ispirata. Eh sì, tra l'altro si ricollega anche al libro di cui abbiamo parlato la settimana scorsa qui a Zibaldoni, L'educazione di un fascista di Paolo Berizzi, pubblicato da Feltrinelli nel 2020, che tra l'altro si presenta proprio questa sera qui a Barcellona alla libreria Italiana Le Nuvole. Niente di più, niente di meno, chiudiamo qui questo speciale, questo monografico, che dir si voglia, da chi ci siamo liberati, da chi dobbiamo liberare. ricordarci 100 anni di fascismo nelle canzoni, grazie a Fausto De Salvia, grazie al Banzo Enrico Banzola, niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 19.53 tutti i venerdì era solito dire... Direi che dopo 2 ore di programma avete capito a chi si riferisce il chi del titolo. Chi è fascista danneggia anche te, digli di smettere. Eh sì, e soprattutto visto che siamo alle porte di questo 25 aprile, buon 25 aprile a tutti e soprattutto festeggiatelo, celebratelo, manifestate, fate sentire la vostra voce. Buon venerdì sera, buon fine settimana, lui è Francesco Bianconi e questo è il suo romanzo di formazione. Bye bye. Forte come te, ma anche fragile perché la vita è dura. Padrone dal 73, babbo è un cane stanco che mi fa paura. Io sono il figlio che non vuoi, dentro il parco pieno di siringhe dove Cristo muore. Nelle fabbriche gli operai sono in sciopero, li saluto mentre vado a scuola. E c'è la crisi e l'austerità, sì, ma ho amici, dischi e felicità, mostri giapponesi, eroi, malinconie, robot. Della stazione, non per il golpe ipotizzato dai media. Io tremavo all'idea di incontrare la ragazza bionda e di poterla poi toccare. Mi feci coraggio e le dissi nell'ora di ricreazione: non ci lasceremo mai. Mi vuoi sposare? Come il fratello che non ha. Masticavo videogiochi, cicche, guerra nucleare. E gli angeli sparavano ai filistei del ministero della realtà da rivoluzionare. Faceva più freddo tanti anni fa. Sì. Ma avevo i giochi di società, leggo soldatini, non perdevo quasi mai. Mettevo le bombe ero io quello a Piazza Fontana, il cancro animale interno alla fede, ai moti di maggio e alla comune. Ero io che ho fottuto per soldi e per fottere ho fatto la contestazione, perché si sa che la sbornia finisce, rimane l'istinto di conservazione. Oggi ancora è borbonico il vento e i ragazzi limonano al mare, mentre quattro gerarchi al ritorno li faranno per me macellare. Io che adesso ho la rete e la gloria, schermi e codici da accarezzare, che ho esortito il lettore estremista di sinistra extraparlamentare, per finire borghese in bellezza da grande a pregare coi maghi e le suore. Ora sono al governo un fucile ed è giusto che debba imparare a sparare. Ho buon senso e paura e ti ammazzo se ti colgo in flagrante a rubare, perché oggi l'aria è cambiata, c'è il sole, sempre uguale non si può cambiare.